E quindi ora parliamo di resistenza delle donne in un'altra parte del mondo, in Kurdistan, e mandiamo l'annunciata intervista a Nursel Kilic. Un'intervista che dura 35 minuti. Ed è stato proprio su invito del Movimento Internazionale delle Donne Curde che AIDL ha voluto organizzare questa delegazione, e questa collaborazione va avanti da tempo, perché diciamo il Movimento Internazionale delle Donne Curde, oltre a fare questo lavoro prezioso di informazione rispetto all'attività delle donne nel conflitto e al di fuori del conflitto per i diritti delle donne, già da 5 anni lavora alle Nazioni Unite sul femminicidio, per cui sono state proprio le donne curde tra le prime nelle Nazioni Unite a collaborare con la Relatrice Speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne per il riconoscimento anche del femminicidio come violazione dei diritti umani in contesto di guerra, anche come crimine di guerra. E hanno fatto un lavoro molto importante andando anche nei vari parlamenti europei, nei vari parlamenti nazionali in Europa, a presentare il loro lavoro sul femminicidio, proprio perché il concetto di femminicidio anche per loro è un concetto che ricomprende tutta la sfera di espressioni patriarcali di annullamento della dignità e dei diritti umani delle donne. Quindi insomma, se volete fare anche rispetto a questo, il loro lavoro di lungo termine va bene, nasce ben prima dell'inizio del conflitto. Particolarmente l'occasione internazionale di se sont rendus suite à notre appel au Rojava, au Kurdistan de Turquie et au Kurdistan irakien. Nous vous remercions. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio l'organizzazione per questo invito e ringrazio in particolare la delegazione delle giuriste dell'Associazione Internazionale che hanno fatto seguito al nostro appello e si sono recate in delegazione in Rojava, in Turchia e in Iraq. Je suis bien consciente que ce voyage était un voyage bien sûr très enrichissant, mais aussi un voyage très difficile dû au contexte de la région actuelle. Je trouve ce travail courageux de la part de tous les membres de la délégation d'avoir pris ce risque et de s'être rendu sur place pour confronter et être témoin de la situation réelle dans la région. Questo viaggio è stato sicuramente un viaggio che ha arricchito le persone che l'hanno fatto, ma è stato anche un viaggio molto difficile, in particolare per il contesto attuale che c'è nella regione. Quindi sicuramente è stato coraggioso, però appunto. Notre appel consistait à mobiliser et à sensibiliser les féministes, les personnes qualifiées, les juristes, les académiciennes, à se rendre sur place et à constater par leurs propres yeux ce qui se passait suite aux attaques inhumaines de l'État islamique de ISIS. Il nostro appello serve a sensibilizzare le femministe, le giuriste, perché si rechino di persona a vedere con i loro occhi cosa succede in quei posti a seguito degli attacchi brutali e disumani di ISIS. Je voudrais commencer par une introduction très breve sur qui est ISIS. ISIS est actuellement une organisation internationale terroriste dans la région et qui s'est auto-créé par le soutien antérieur des forces internationales qui veulent redessiner la région du Moyen-Orient. Voglio iniziare spiegandovi chi è ISIS. ISIS è un'organizzazione terroristica internazionale che opera nella regione e che è stata autocreata anche grazie a forze internazionali per ridisegnare la struttura politica della regione. Ma ISIS, per noi, le femmes della regione, per le femmes kurde, per le femmes turkmen, per le femmes assyriate, per le femmes chiite, e le rappresentante supremo del sistema patriarcale. Ma ISIS per noi, donne curde, donne assire e turcomanne che abitano quella regione, è in particolare la rappresentanza estrema suprema di quello che sono le forze patriarcali. Car mis à part les enjeux conjoncturels politiques sur la région, qui visent à diviser la région relatif aux intérêts des forces internationales, ISIS veut reconstruire un monde basé sur la violence à l'égard des femmes et basé sur la toutes les discriminations possibles à l'égard des peuples de la région. La divisione della regione infatti è stata una divisione forzosa voluta dalle forze internazionali, come spiegava prima Simonetta, e quello che vuole fare ISIS in questa regione è ricostruire un mondo, una società che sia basata sulla violenza, sulle donne e sulla discriminazione religiosa e etnica dei popoli che vivono in questo territorio. Je vais vous donner quelques chiffres du 3 août 2014, le jour où tout a chamboulé au nord de l'Irak, à Sinjar. Vi voglio dare qualche cifra in particolare relativa al 3 agosto 2014, che è il giorno in cui tutto è cambiato perché è stato il giorno dell'attacco a Sinjar, a Sinjar. Tout s'est passé en 24 heures. Sinjar, aussi situé au nord de l'Irak, au Kurdistan irakien, est passé sous le contrôle de l'ISIS. 300 000 civils se sont déplacés de leur corps, de leur terre natale. È successo tutto in 24 ore. Sinjar si trova nel nord dell'Iraq e in quel giorno più di 300.000 civili sono stati deportati e allontanati da questo luogo. La plupart d'entre eux se sont réfugiés à Duhok, Zaho, mais aussi au Kurdistan du Rojava, dans le canton de Jizweh, au camp de Nevruz. La maggior parte di loro si sono allontanati diretti in Iraq verso le zone di Duhok e Zaho, ma altri invece sono andati verso il Rojava, verso il cantone di Cisre. 20.000 d'entre eux n'ont pas voulu quitter leur terre natale e ont commencé à fuir vers les monts de Sinjar, les montagnes de Shengal. 20.000 persone hanno abbandonato i loro luoghi natali e si sono inerpicati verso le montagne di Sinjar, monti. Et malheureusement, le 3 août 2014, durant ces 24 heures, 3000 personnes ont été exécutées. Sfortunatamente, il 3 agosto 2014, nell'arco di 24 ore, ci sono state l'esecuzione sommaria da parte di ISIS di più di 3000 persone. Depuis ce jour, nous avons entamé un travail de recherche sur la vérité dans la région pour arriver à identifier chi sono le femmine, chi sono i enfants e chi sono gli uomini che hanno été enlevés e exécutés par l'État islamique. A partire da questo giorno noi abbiamo iniziato a fare un lavoro di ricerca della verità su quello che è successo in quella regione, per cercare di capire chi sono le donne, gli uomini e i bambini che quel giorno sono stati, per quale giorno è stata fatta una esecuzione sommaria, che sono stati assassinati da ISIS. Je voudrais préciser que le peuple de Sinjar appartient à une croyance, qui s'appelle le yézidisme. Le yézidisme provient du zoroastrisme, de la philosophie de Zoroastra. Ce sont les derniers descendants de cette philosophie. Ils sont au total 800 000 dans le monde, dont 50 000 en Allemagne. Voglio precisare che i cittadini di Sinjar sono per la maggior parte yezidi. Gli yezidi sono persone che hanno una credenza religiosa che deriva dallo zoroastrismo, quindi sono gli ultimi discendenti della filosofia di Zoroastro. Gli yezidi sono in totale 800.000 nel mondo, 50 di loro vivono in Germania. 50.000 di loro vivono in Germania. Ils ont été massacrés à 72 reprises dans l'histoire. Ils ont voulu être exterminés pour que cette philosophie aussi soit éradiquée de la région du Moyen-Orient. Sono stati massacrati per ben 72 volte nell'arco della storia e vogliono sterminarli per eliminare questo tipo di credenza da quella regione. Et au fil et à mesure du temps, cette croyance, ce peuple qui a souvent été menacé d'extinction, de disparition, s'est refermé en lui-même. C'est devenu un peuple conservateur, une religion conservatrice. Questo popolo che così tante volte per la sua credenza è stato minacciato di estinzione nella sua storia è diventato un popolo conservatore, si è chiuso in se stesso per preservarsi. Aujourd'hui, le nombre de femmes estimées dans les mains de Daesh est de plus de 7000. Oggi il numero di donne nelle mani di Daesh o dell'ISIS è di più di 7000 donne. Plus de 2000 d'entre elles sont emprisonnées à la prison de Tel Afar à Mosul. 2000 di loro sono detenute nella prigione di Tel Afar a Mosul. La plupart d'entre elles sont vendues dans les bazars du sexe à des prix variant entre 50 et 150 dollars. La maggior parte di loro sono vendute in veri e propri mercati delle schiave in cui il prezzo varia dai 50 ai 150 dollari. Le prix varie en fonction de l'âge, en fonction de la virginité et en fonction de si elle a des enfants ou pas. Il prezzo di queste donne varia a seconda dell'età, del fatto che abbiano figli o non abbiano figli o che siano vergini. Il y a des exemples terribles d'une fille, d'une petite fille de 8 ans mariée à un homme de 70 ans. C'è un esempio riguardo una bambina di 8 anni che è stata sposata forzosamente a un uomo di 62 anni. Ces hommes, ces émirs arabes qui acceptent de vivre sous les lois de Daesh. Si tratta di un emiro arabo che ha accettato di vivere secondo le leggi di Daesh, di ISIS. Daesh, l'État islamique, a décrété des lois spécifiques, des fatwas, comme on dit en arabe. Daesh ha emesso una vera e propria fatwa, una norma specifica per quanto riguarda le donne. Donc ce sont des lois de la charia aujourd'hui appliquées dans tous les points de contrôle de l'État islamique et qui sont situés stratégiquement dans la région, au nord de l'Irak et dans différents pays aussi, pays voisins de la région. Selon ces lois, les femmes ne peuvent pas sortir dehors sans la présence de l'homme. Questa fatwa viene applicata anche oggi che stiamo parlando in tutti i posti controllati dallo Stato islamico, in particolare nei suoi avamposti in nord Iraq ma anche nei paesi limitrofi. La prima regola di questa fatwa dice che alle donne non è consentito uscire di casa da sole senza la presenza di un uomo. Donc les femmes doivent se voiler intégralement. Tout le corps, le visage jusqu'aux pieds, même les mains, pour ne pas être observé par d'autres hommes que ceux auxquels elles appartiennent. La seconda regola dice che le donne si devono coprire integralmente il loro corpo, anche le mani, per non essere viste da uomini cui loro non appartengono. Toutes les filles des familles qui ont accepté de vivre sous les lois de l'État islamique doivent être mariées automatiquement à des hommes de l'État islamique. Tutte le figlie femmine di famiglie che hanno accettato di vivere nei luoghi sotto il controllo di ISIS devono automaticamente essere sposate con uomini appartenenti allo Stato islamico. Et malheureusement, c'est une pratique très ancienne qui existait aussi au Kurdistan irakien, mais qui existe aussi en Éthiopie et dans les pays africains. Toutes les femmes sont obligées d'être excisées, d'être mutilées génitalement, quel que soit leur âge. Et purtroppo questa è una pratica che appartiene dall'antichità a quest'area, ma appartiene anche a numerosi altri paesi africani, che è stata resa obbligatoria da ISIS. A tutte le donne vengono praticate le mutilazioni genitali femminili. Nous avons eu l'occasion de lire certains des témoignages des jeunes filles qui avaient été kidnappées par Daesh et qui avaient réussi à fuir après ce kidnapping. Noi abbiamo già avuto la possibilità di raccogliere la testimonianza, di venire a conoscenza di donne che sono state rapite da ISIS e che sono anche riuscite a scappare da ISIS. L'une d'entre elles, qui avait 16 ans, témoignait en disant qu'elle était violée systématiquement 30 fois par jour par des hommes qu'elle ne connaissait pas, par plusieurs hommes différents, 30 fois par jour. Una ragazza di 16 anni, ad esempio, ha raccontato di essere stata stuprata più volte al giorno, più di 30 volte al giorno, da uomini differenti. Che dans le cas où elle n'acceptait pas, elle était confrontée à des tortures, vraiment, des tortures sont déjà inhumaines, mais des tortures suprêmes, che les mégots de cigarette étaient écrasés sur son corps, fouettés, et aussi interdiction de manger, donc affamée et aussi assoiffée pour ne pas se soumettre aux ordres des hommes de Daesh. Nel caso, nel momento in cui questa ragazza rifiutava di essere stuprata, veniva sottoposta a torture disumane che si fa veramente fatica a riferire. Tra queste venivano spente sigarette sul corpo o veniva sottoposta a digiuno forzato per rendere più facile lo stupro da parte degli uomini di Daesh. Ma là, on va se poser une question. Quel genre d'endoctrinement idéologique pour que des hommes, des femmes comme vous et moi arrivent à perpétrer ce genre de torture? Car il y a aussi des femmes qui sont membres de Daesh et qui accomplissent aussi ces tortures à l'égard de ces femmes et à l'égard de ces enfants. Alors à questo punto ci dobbiamo anche porre una domanda. Sulla base di quale adesione ideologica è possibile che anche delle donne, donne come me e donne come voi, si siano potute rendere artefici di questo tipo di torture abbracciando e arruolandosi per Daesh e arrivando anche loro a compiere questo tipo di atrocità? Su quale metodologia di organizzazione agisce l'età islamica? Quali sono i metodi, quali sono le strategie di azione dello Stato islamico? Ils agissent aussi en Europe, car vous savez, 10%, plus de 10%, environ 20% des membres de l'État islamique sont arrivés des pays européens, des pays occidentaux. Daesh è vivo, agisce anche in Europa. Più del 10% dei membri di ISIS è arrivato e si è arruolato proprio da paesi europei. Ils commencent à s'introduire dans les maisons de culte, les maisons religieuses, telles que la mosquée, qui est un lieu de culte pour la religion de l'islam. Ils commencent par influencer les jeunes enfants en les appelant à la mosquée pour leur faire voir des films, des matchs de foot et pour faire des soirées festives au sein même de la mosquée pour qu'ils croient que c'est un lieu de paradis. ISIS si introduce nelle moschee, inizia a influenzare giovani e ragazzi anche attraverso film, attività culturali, feste, facendogli credere che unirsi a loro li porterà in paradiso. E au fur et à mesure, les films très innocents au départ deviennent des films des thrillers, des films d'assassinat. Et ils commencent à s'endoctriner sur la mort et sur la pouvoir par sur le pouvoir par la mort. C'è un passaggio poi in cui questo indottrinamento diventa sempre più pesante, viene introdotta la cultura del sacrificio per l'uccisione, per il culto della morte. Plus ils regardent ces films, plus ils jouent à des jeux sur internet pour tuer l'adversaire, plus ils ont l'impression d'être forts, plus ils ont l'impression d'être puissants, et petit à petit, ils veulent le faire pour de vrai, en réel. Viene quindi stimolato un culto dell'aggressività anche attraverso videogiochi in cui si uccide, viene inculcato man mano questo culto della forza, che prima è un culto che appunto riguarda la dimensione del gioco dell'immaginario fino a farlo diventare una realtà. Ça, c'est valable pour l'endoctrinement en Europe. Questo ovviamente riguarda i percorsi di indottrinamento di ISIS nei confronti in Europa. Dans les pays où ils contrôlent, dans les pays, en Irak particulièrement, où ils contrôlent les régions, ils enlèvent les enfants des familles, ils enlèvent les jeunes garçons. Ils menacent ces jeunes garçons d'assassiner toute la famille s'ils ne s'engagent pas au sein de l'ISIS. Invece nei paesi sotto il controllo di ISIS li prendono le famiglie, li prendono forzatamente e li arruolano anche attraverso la minaccia di fare del male alle proprie famiglie se non accettano l'arruolamento. E voi visionate certains témoignages justement de ces personnes qui ont été arrêtées par les forces d'autodéfense kurdes, qui ne regrettent pas du tout d'appartenir à Daesh. Et qui disent que dans le cas où ils seront libérés, ils continueront à tuer pour Daesh. C'è la testimonianza diretta di membri di ISIS che sono stati arrestati dalle forze di autodifesa curde e anche una volta presi dalle forze di autodifesa curde continuano a dire che una volta rilasciati, se rilasciati, loro continueranno a uccidere in piena adesione a quella che è l'ideologia di ISIS. Car ISIS leur a promis un paradis avec plein de femmes, avec plein de richesses et avec un monde où ils seraient seuls empereurs de ce monde, alors ils ont pour seul objectif de mourir pour aller vers ce paradis. Donc ils ne feront aucun retrait, ils n'auront en aucun cas peur de mourir et de devenir, entre guillemets, le martyr de ce califat. L'indottrinamento prevede che alla morte ISIS gli appartenenti a ISIS verranno premiati con un paradiso fatto di donne, vergini, di ricchezze, per cui per questi uomini morire è l'obiettivo per arrivare a questo paradiso e quindi il loro obiettivo è proprio quello di spendersi integralmente per diventare dei martiri e accedere a questo miraggio. Mais tout à l'heure, comme l'a si bien dit Simonetta, ils ont un ennemi, ou des ennemis, qui sont des femmes combattantes au Rojava, et des femmes qui ne vont pas partir au paradis, parce qu'elles ne sont pas halal. Però come diceva molto bene Simonetta, loro come nemici hanno delle donne combattenti che sono impure, quindi l'uccisione da parte loro gli impedisce di arrivare in questo paradiso. Donc nous allons bien comprendre que la guerre de Daesh est une guerre idéologique, est une guerre idéologique contre l'idéologie de la libération des femmes au Moyen-Orient. Quindi si capisce bene che la guerra combattuta da Daesh è una guerra ideologica ed è una guerra contro l'autodeterminazione delle donne nel Medio Oriente. Car les forces d'autodéfense féminines de l'IPJ ne sont pas simplement des forces d'autodéfense armées, c'est un système d'autodéfense contre le système patriarcal dans la région. Quindi capite bene che le forze di autodifesa femminile non sono soltanto delle forze di autodifesa armate, forze di difesa armate, ma sono un vero e proprio sistema di autodifesa della libertà delle donne nella regione. C'est ce système qui brise tous les mécanismes de pouvoir, tous les mécanismes de domination masculine que prônait l'État islamique dans la région. È un sistema che rompe tutti i meccanismi di potere di dominazione maschile e patriarcale di Daesh dentro questa regione. Ils ont voulu détruire Kobané en pensant détruire le système démocratique autonome proclamé par les Kurdes du Rojava. Distruggere, conquistare Kobani non potranno distruggere, conquistare quello che è il sistema autonomo del Rojava. Mais plus les attaques avançaient, plus la mobilisation grandissait. Più gli attacchi vanno avanti, più la mobilitazione si accresce, si rafforza. Quel est ce système qui est l'ennemi de cet enjeu? Quel est ce système qui est l'ennemi de ce système patriarcal? Ma qual è questo sistema che è il nemico del sistema patriarcale, che è il nemico dell'ISIS? C'est un nouveau contrat social, basé sur le confédéralisme démocratique. Questo sistema quindi che si può considerare il nemico di ISIS è questo sistema appunto basato sul contratto sociale che è questa carta del Rajah. Ce contrat social porte des valeurs très fortes qui enfreint toutes les méthodes de domination patriarcale d'ISIS dans la région. Questo contratto sociale contiene dei valori molto forti che rompono tutti i sistemi di dominazione patriarcale di Daesh dentro la regione. Il contrat social proclame l'égalité. L'égalité homme-femme dans toutes les institutions et dans tous les mécanismes de système d'autogestion du Rojava. Questa carta sociale contiene il principio di uguaglianza tra uomini e donne, uguaglianza in tutti i meccanismi di rappresentanza e di auto-organizzazione del Rojava. L'éducation, l'enseignement est gratuit dans ce système, aussi bien pour les filles que pour les garçons. L'educazione, la scuola è gratuita per uomini e donne in tutta la regione. Les droits collectifs, ceux du travail, du logement, de la santé, avec l'instauration d'un congé de maternité. Il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto alla salute, il congé di maternità sono previste in questa carta. Et surtout, tout le contraire de ce que prône la Daesh dans la région, cette division des professions. È al contrario di ISIS, che non le riconosce, invece questa carta riconosce la possibilità di praticare la propria professione religiosa, di tutte. Donc, le respect des identités, de tous les composants de la région, des Arabes, des Assyriens, des Chaldeens, des Arméniens, des Turcmènes et des Tchétchènes. Quindi il rispetto di tutte le identità diverse presenti nella regione, dai Caldei agli Assiri, ai Turcomanni e Kurdi. Une autre chose très importante, la laïcité. La laïcité qui, dans le contexte de ne pas intervenir dans les affaires publiques, respecte toutes les religions de la région, l'islam, le christianisme et le yézidisme. È il principio di laicità fondamentale che impone il rispetto di tutte le religioni presenti nella regione, yezidi, cristiani, islamici. Et pour finir, pour vous raconter, pour vous expliquer quel est l'ennemi de Daesh, c'est aussi le système de coprésidence, le système des assemblées populaires qui permet aux personnes habitant dans la région du Rojava de s'auto-gouverner, de s'auto-administrer, de s'auto-gestionner par l'élection d'une femme et d'un homme dans tous les cantons du Rojava. E per finire, per farvi capire qual è il vero nemico di Daesh, vi voglio parlare del sistema di copresidenza, che è un sistema molto importante di autonomia popolare, di autogestione, che prevede per ogni carica, in ogni cantone, la presenza di un uomo e una donna. Pour revenir aux femmes qui attendent la lumière, qui sont dans l'ombre actuellement entre les mains de Daesh, parlons de ce que nous pouvons faire ensemble pour aider à identifier toutes ces femmes qui sont actuellement et malheureusement entre les mains de Daesh. Ci sono delle donne che oggi si trovano nell'ombra e aspettano la luce. Quindi voglio raccontarvi che cosa vogliamo fare noi insieme per cercare di identificare tutte quelle donne che attualmente si trovano nelle mani di Daesh. Car les forces internationales, la coalition internationale a dans un sens peut-être joué un rôle pour mettre en retraite Daesh à Kobané ou dans quelle que soit la place dans la région, mais cela ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, des milliers de femmes, des milliers de petites filles, des milliers de petits garçons sont entre les mains de Daesh. Des centaines d'entre eux ont réussi à fuir Daesh, mais ils sont confrontés à des problèmes psychiatriques et psychologiques traumatiques très graves. Donc, je félicite le travail de bravoure qu'a fait la délégation, mais je pense qu'il faut un travail de continu. La coalizione internazionale sicuramente gioca un ruolo importante a livello militare per allontanare l'ISIS dalla regione, ma questo sicuramente non basta, perché ci sono migliaia di persone che ancora sono nelle mani dell'ISIS, bambine e donne, e che per questo motivo hanno e avranno dei problemi psichiatrici e personali molto importanti. Per cui io sono molto felice del lavoro coraggioso che è stato fatto da questa delegazione, ma penso che non sia sufficiente e debba essere necessariamente portato avanti. Il existe quelques maisons de protection des femmes qui sont protégées par les forces d'autodéfense féminines, mais il faut des projets à long terme pour dénoncer tous ces massacres perpétrés contre les femmes, mais aussi pour pouvoir déchiffrer tous les actes terroristes perpétrés par Daesh et pour pouvoir faire pression politique pour arriver à ce que ces femmes sortent de l'ombre. Sicuramente le forze di autodifesa femminili del Rojava hanno organizzato delle case rifugio in cui attualmente sono ospitate, sono accolte, sono prese in carico queste donne sopravvissute all'ISIS, ma questo non è assolutamente sufficiente. Serve un lavoro che sicuramente deve dover essere un lavoro di denuncia, ma anche un lavoro di supporto per decifrare tutti gli atti terroristici che sono stati commessi da Daesh e portare avanti e far uscire dall'ombra queste donne che sono state rapite. Pour terminer mon intervention, je fais appel à toutes celles et à tous ceux qui sont intéressés à contribuer à l'établissement d'une commission de vérité et de justice pour identifier toutes les femmes qui sont détenues entre les mains de Daesh et pour pouvoir entreprendre des projets à longue durée pour celles qui ont réussi à fuir des mains de Daesh. Merci. Per finire il mio intervento voglio invitare tutti quelli che ne hanno la volontà a aiutarci per l'istituzione di una commissione di verità e giustizia per identificare tutte le donne e bambine che sono attualmente nelle mani dell'ISIS e per fare un progetto di lungo termine per la loro liberazione e il loro recupero una volta liberate. Ringrazio molto per l'attenzione. La domanda era se ai uomini è promesso il paradiso, che cosa è promesso alle donne che appartengono a Daesh? Je veux dire qu'il y a une brigade qui s'appelle la brigade Kansa. Ce sont des femmes membres de Daesh qui ont le devoir de choisir les femmes dans les bazar du sexe pour les hommes de Daesh. Esiste una brigata che si chiama Brigata Kansa, che è una brigata di donne arruolate in ISIS che hanno il compito di scegliere da questi mercati delle schiave le schiave sessuali per i militari di Daesh. Et dans le cas où ces femmes désignées esclaves du sexe n'acceptent pas, parfois ces femmes deviennent aussi des bourreaux de mort. Quindi quando una delle donne scelte rifiuta, queste donne arruolate in ISIS diventano le assassine e le assassine queste donne in pratica. E generalmente sono delle donne agi. E si tratta di solito di donne anziane. Quando si crea questa proposta di autonomia regionale, se si può chiamare così, e che tipo di proposta è? Approfondire un po' questa proposta, se semplicemente in quella parte del Kurdistan o in quella di come nasce questo. Le système d'autonomie démocratique a commencé à exister au Rojava, mais c'est un système que nous souhaitons dans les quatre parties du Kurdistan. Il sistema di autonomia o di confederalismo democratico attualmente applicato in Rojava, ma è un sistema che noi ci auspichiamo come possibile anche nelle altre parti dell'area kurda, del Kurdistan. E la base del sistema esiste già au Kurdistan de Turchia. La base di questo sistema esiste già anche per quanto riguarda le aree kurde della Turchia. Les Kurdes de Turquie sont dans une période de transition. Comme vous le savez, nous avons 36 parlementaires dans la grande assemblée nationale turque. I Kurdi in Turchia sono in un momento di in un periodo di transizione. Come voi sapete, noi abbiamo delle rappresentanze di parlamentari kurdi all'interno del Parlamento turco. Mais il y a aussi un parlement alternatif qui est le Congrès démocratique des Kurdes. Ma c'è anche quello che possiamo definire un parlamento alternativo, che è il Congresso Nazionale dei Popoli Curdi della Democrazia. Perché in questo congresso non c'è solo la rappresentazione dei curdi, ma di tutte le altre etnicità che si sentono appartenere a questo sistema. E dentro questo parlamento alternativo non c'è solo la rappresentanza dei curdi, ma anche di tutte quelle altre forze e persone che si sentono di appartenere a questo tipo di sistema. Come voi sapete, au mois de juin, il y a les élections. Come voi sapete, a metà giugno ci sono le elezioni in Turchia. E cette fois-ci, le parti du HDP, de la démocratie du peuple, va se représenter pas seulement en partie pro-kurde, ma in parte rappresentando giustamente tutte le etnicità in Turchia. E a queste elezioni si presenterà l'HDP, che è il Partito per la Democrazia del Popolo, e non è un partito che rappresenterà soltanto i curdi, ma rappresenterà anche tutte le altre identità che condividono questo percorso nella regione. Quindi questa transizione è la rappresentazione del sistema confederale democratico par le HDP au sein du Parlement de Turquie. Quindi questa transizione è rappresentata dal fatto che l'HDP andrà a rappresentare nel Parlamento turco quello che è il sistema del confederalismo democratico. E en ce qui concerne la transizione della Turchia vis-à-vis di Rojava, bien sûr que la Turquie n'accepte pas de reconnaître. Per quanto riguarda la posizione della Turchia nei confronti del Rojava, è scontato che la Turchia al momento non accetta quello che è il sistema del Rojava. Cela rappresenta per la Turchia un grand danger, celui de l'application de ce même système au sein même de son territoire officiel actuellement. Per la Turchia infatti rappresenta un grande pericolo l'applicazione di questo sistema anche all'interno del suo territorio in questo momento. E giusto per aggiungere qualcosa di molto fondamentale, voi sapete che è la Turchia che ha aperto tutte le porte di questa frontiera per il passaggio di Daesh a Kobane. E giusto per ricordarvi una questione fondamentale, immagino che voi tutti sappiate che è proprio la Turchia che ha aperto le sue frontiere per il passaggio di persone e beni per ISIS per andare a Kobane. Sono obiettivi principali di dividere la regione e di costruire una provincia appartenente alla Turchia. Infatti il suo obiettivo principale è proprio quello di destabilizzare la regione e costruire un'ulteriore provincia della Turchia in quell'area. Questo non ha mai marché, c'est pourquoi le corridoio umanitario non ha mai esistito. Questo sistema, questo progetto della Turchia non ha funzionato, ma questo è il motivo per cui non è mai stato aperto un corridoio umanitario. Les femmes kurdes des quatre parties combattent déjà depuis 40 ans dans les montagnes du Kurdistan. Les quatre parties, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie, elles existent depuis 40 ans. C'est une force de guérilla de 40 ans. Donc cet appel continue de toute façon, mais elles sont déjà mobilisées. Il y a des milliers de femmes combattantes. Donne. Dice che le donne delle quattro parti della Siria sono più di 40 anni che sono addestrate al combattimento per la guerriglia, nella guerriglia diciamo, sono addestrate per questo tipo di combattimento e quindi è evidente che hanno un percorso specifico ed è per questo che non hanno fatto un appello internazionale. Eskisim ki çakurdanım, kulil gaziri lavanım, rihan arzu çemanım, lauku vezberibanım, rihan.